America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Il governo italiano ha autorizzato gli Stati Uniti ad utilizzare la base di Sigonella per far partire delle missioni di droni in Nord Africa e in Libia, in particolare, attenzione, missioni difensive, non missioni offensive. Sul fronte elettorale di politica interna abbiamo le elezioni oggi in Carolina del Sud, elezioni importanti perché consentiranno a Hillary Clinton di accumulare, secondo me, un numero talmente elevato di delegati alla convention da rendere, come dire, molto molto difficile la corsa di Bernie Sanders. Ma oggi non voglio parlare né di politica internazionale né di politica interna, voglio raccontarvi la storia di un'azienda italiana che cerca di espandersi nel mercato americano. L'ho registrata direttamente in un nuovo ristorante della Barilla, sentiamo. Bene, sono nel terzo ristorante, siamo già al terzo ristorante, mi ricordo il primo di Barilla, naturalmente sono con Guido Barilla. Buongiorno Guido. Buongiorno, come stai? Allora, bene, benissimo. Dunque io mi ricordo il primo ristorante aperto sulla 52, se non sbaglio, la Sesta, che era vicinissimo al nostro ufficio. Adesso siamo a Wall Street, quindi dovrete aprire anche una Wall Street, spero. E mi ha colpito questa idea di fare un ristorante della Barilla che vendeva la pasta, però c'era anche il ristorante, si cucinava, c'era la pizza, insomma tutto di altissima qualità. Poi ne avete aperto un altro sulla Sesta Avenue a Bryant Park, alla 42, e adesso siete qui. Perché questa espansione? Ne vorrete fare altri 10, altri 20? Qual è l'obiettivo? Cioè, l'espansione, l'inizio, il pensiero iniziale è quello di avvicinarci alle persone, cioè di poter dare i nostri prodotti e la qualità dei prodotti direttamente alla gente e tentare di capire anche quali sono le reazioni. Barilla fa prodotti in scatola, diciamo, in package da ormai 70 anni e non aveva mai avuto l'esperienza diretta di fornire direttamente un cliente. E questo ci ha permesso già in questi 2 anni di comprendere molte cose ed è una strada che intendiamo continuare. Ne abbiamo aperti 3 per ora, ne apriremo diciamo entro 12 mesi altri 2 e poi vedremo come andrà e speriamo di farne degli altri. Ecco, avete anche delle fabbriche qua negli Stati Uniti, quindi avete anche una presenza industriale. Il concetto è lo stesso, cioè sono questi dei flagship store che poi aiutano il brand e viceversa? Certo, possono aiutare la percezione del brand, possono aiutare le persone a conoscere le nostre ricette, possono avvicinare le persone anche all'attività della società, del marchio. Noi sappiamo che più ci si avvicina alla gente oggi meglio si è recepiti, le persone vogliono sapere sempre di più sulla qualità dei prodotti, vogliono comprendere meglio la vita delle aziende e quindi avvicinarsi ai marciapiedi, stare più vicini al consumo è senz'altro una delle strade più importanti. Ecco, qual è la vostra dimensione negli Stati Uniti? Quante aziende, quanta gente, che fatturato, che distribuzione? Dunque, ne abbiamo aperto 2 stabilimenti, il primo nel 97 e il secondo nel 2004, sono uno in Iowa, nello stato dell'Iowa, l'altro nello stato di New York. Abbiamo un ufficio con un centinaio di persone a Chicago. Gli Stati Uniti sono certamente una realtà a tutto tondo, una vera Barilla America, con tutte le funzioni integrate e stiamo procedendo molto bene, diciamo, siamo estremamente soddisfatti. Per ora produciamo pasta e sughi, i sughi non direttamente, controlliamo tutta la filiera però della materia prima e abbiamo un produttore che produce per noi e diciamo che abbiamo anche soddisfazione nei sughi. Ecco, da un punto di vista, diciamo, strategico del food industry, se lei deve pensare al futuro e alle sfide che il nostro paese ha nel tenere il passo con la concorrenza mondiale, che futuro vede per la Barilla? Un futuro di crescita attraverso acquisizioni, un futuro di andare in borsa, di autonomia, di indipendenza? Io penso da sempre che il successo per le imprese non sia quello di diventare estremamente grandi. L'importante è essere particolarmente capaci nel mestiere che si fa. Barilla non vuole essere tutto. Barilla produce in Italia i prodotti della pasta e i prodotti da forno e abbiamo deciso di perseguire nel mondo la strategia di diventare il numero 1 nella pasta alimentare. Ed è quello che noi proseguiremo nei prossimi anni, cioè essere i più bravi nel fare una cosa. Tutto il mondo dovrà conoscere Barilla come la miglior pasta e la pasta più amata dalla gente. E oggi siete già il numero uno come pasta alimentare nel mondo? Sì, Barilla oggi è il leader delle paste alimentari nel mondo. E poi subito dopo di voi ci sono altre aziende italiane, quindi l'Italia comunque è leader, perché ci sono anche produttori americani, Ronzoni. No, il secondo produttore al mondo di pasta è uno spagnolo, che però ha parecchi marchi differenti per paesi, dove ha anche posizioni importanti, ma Barilla è il marchio globale, diciamo, di gran lunga superiore. Ecco, abbiamo parlato di cibo, di alimentazione e della necessità di portare questa qualità anche direttamente al pubblico, e devo dire nell'inaugurazione che avete fatto ieri sera, in questo divertente, simpatico, bel ristorante, tra l'altro vicinissimo a Macy's, vicinissimo a Madison Square Garden, quindi è una zona strategica per New York, con un traffico enorme, avete anche presentato e dibattuto un libro, Eating Planet. Qual è l'idea di questo libro, fatto dalla vostra fondazione, quindi c'è anche un messaggio filantropico, diciamo? Allora, Barilla è molto attiva da 7-8 anni nell'attività di ricerca che riguarda il cibo a tutto tondo, a 360 gradi. Noi abbiamo istituito il Barilla Center for Food and Nutrition ormai 8 anni fa, che con un board, diciamo con un gruppo di scienziati che partecipano attivamente ai suoi lavori, ha stilato una serie di progetti estremamente interessanti, tutti legati al mondo del cibo. È una modalità di guardare le tematiche, le grandi problematiche del cibo a 360 gradi, cioè non solo cibo da mettere in bocca oppure nutrizione, bensì gli aspetti meno apparenti del cibo, che sono l'agricoltura, la sostenibilità dell'agricoltura, tutte le parti logistiche di prima e seconda trasformazione, quindi tutte le lunghe filiere del cibo. Il cibo è un tema estremamente complesso e il Barilla Center for Food and Nutrition ha deciso di focalizzarsi su tre grandi temi, che sono gli sprechi alimentari, il grande paradosso della mancanza di cibo per 2 miliardi di persone e l'eccesso di cibo per 1 miliardo di persone, e l'altro grande tema è la sostenibilità dell'agricoltura. Tutti questi grandi argomenti sono racchiusi in questo testo che si chiama Eating Planet, che noi abbiamo appena lanciato negli Stati Uniti, che vuole dare la possibilità alle persone proprio di approfondire i temi meno noti legati all'alimentazione e al cibo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno, avevo sempre con me i microfoni di America 24, Guido Barilla, dunque chiediamo a lui di aiutarci con la canzone di oggi. Cosa possiamo suggerire ai nostri ascoltatori? A me piace molto American Pie. American Pie, la torta americana, Don McLean. Did you write the book of love? Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!